La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, caro ascoltatore di Radio 24, 16:31 primi 40 secondi, in diretta qui dagli studi di Milano della Radio. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia dell'ascolto in diretta o in podcast, vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it, e vi dà anche una comunicazione di servizio, siccome molti di voi da 48 ore chiedono la mattina di sentire anche i podcast di Attenti a noi due che facciamo alle 8:15 diretta ogni mattina fino alle 9 con Alessandro Milan, la trovate da appunto da lunedì. Oltre al podcast di 24 mattina, invece quella di Attenti a noi due la trovate sempre nell'elenco dei programmi sul sito della radio con 24 mattina, appunto Attenti a noi due, quindi c'è il podcast e potete, capisco che per abitudine il primo mese era tutto attaccato a quello di 24 mattina, lo abbiamo separato appunto, però lo potete trovare, ascoltarci in podcast senza nessun problema. Allora, l'argomento del giorno è un argomento di servizio giornalistico, dobbiamo stare sul tamburo per gli sviluppi del caso De Luca, che è esploso ieri nel tardo pomeriggio, ieri sera, lo avete trovato stamattina sui giornali, su tutti i giornali radio, i telegiornali e sui quotidiani. È esploso ieri in una maniera che non ha consentito per il tempo molti approfondimenti giornalistici, ma stamattina ci sono stati sviluppi. Di che si tratta? Io sintetizzo la vicenda, sintetizzo gli sviluppi di questa mattina che ci sono e sono rilevanti. Poi presento gli ospiti a cui chiediamo un'opinione. Di che si tratta? Nel tardo pomeriggio di ieri esplode la notizia, dopo le dimissioni del braccio destro che avevano lasciato molti interrogativi, del presidente della Regione Campania, il governatore campano Vincenzo De Luca, Carmelo Mastursi, braccio destro, era quello che gli aveva fatto le liste e così via, esplode il vero motivo di queste dimissioni di cui non si capiva la ragione. Il vero motivo è che c'è un'indagine aperta alla Procura di Roma, quindi procuratore Pignatone, il capo della Procura è Pignatone, concorso in concussione per induzione, e al centro ci sarebbe uno scambio di favori chiesto dal marito di un magistrato, il magistrato Anna Scognamiglio, magistrato presso il Tribunale Civile di Napoli, giudice relatore nel merito del ricorso presentato dallo stesso De Luca per la legge Severino contro la sospensione della carica del presidente della regione. E il marito di questa signora, avvocato e dirigente sanitario al Santo Bono a Napoli, Guglielmo Manna, in intercettazioni che finiscono in un altro troncone di indagine, poi consegnati per competenza territoriale a Roma, che indaga sui magistrati di Milano, il marito della dottoressa Anna Scognamiglio, magistrato, cioè Guglielmo Manna, a quel punto opera, aggancia per così dire, il capo della segreteria di Vincenzo De Luca e mette in atto una minaccia. Gli dice: o mi date un incarico di prestigio, più prestigioso all'interno della sanità pubblica regionale, oppure, cari miei, caro Mastursi, puoi dire a tuo capo che qui la sentenza gli sarà sfavorevole. Ecco, questo è il succo della faccenda. Allora, a stamattina i giornali sanno solo questo e quindi si profila un enorme caso De Luca, perché è immaginabile che non sapesse nulla, che nessuno sa nient'altro. E quindi questa mattina esplode la bomba e di fronte a questa bomba gli sviluppi sono sostanzialmente tre nell'arco della giornata. Primo, noi apprendiamo, perché esce l'atto formale attraverso cui la procura e quindi la polizia giudiziaria, come in esecuzione delle richieste della procura, ha proceduto a perquisizioni e requisizioni già lo scorso 19 ottobre a casa e nell'ufficio del braccio destro di De Luca, e dall'atto formale si capisce che effettivamente la procura, per materiale di indagine, intercettazioni o altre attività che noi non conosciamo, di cui non conosciamo quindi gli estremi, tuttavia ritiene formalmente che il presidente della Regione Campania sia stato minacciato dagli altri coindagati, sia stato minacciato cioè procedere a questa nomina chiesta dal marito di Anna Scognamiglio, magistrato, perché se non l'avesse fatta, allora la sentenza non gli sarebbe stata favorevole. Da questo punto di vista, le espressioni formali che sono contenute nei decreti di perquisizione, da questo punto sono inequivoche. Non sappiamo in base a che cosa, ma La procura, all'atto di procedere alle requisizioni e alle perquisizioni a casa del braccio destro di De Luca, scrive formalmente che è sì coindagato il governatore della Campania, però è oggetto di una minaccia posta in essere insieme dal magistrato, questo c'è scritto, da suo marito, con la collaborazione di due intermediari e con avente come terminale il capo della segreteria di De Luca. Primo sviluppo, quindi uno sviluppo per quanto si legge, e noi non sappiamo però in base a che cosa la procura ipotizzi e scriva questo nelle ordinanze di perquisizione e requisizione, però è un colpo a favore ovviamente della tesi di De Luca. De Luca sostiene, questo è secondo punto, in una conferenza stampa stamattina, di non sapere, di non aver mai saputo assolutamente nulla, cioè sostiene che il suo braccio destro non gli ha detto nulla neanche all'atto delle dimissioni, di essere stato raggiunto da queste telefonate, da queste pressioni, di aver avuto perquisizioni in ufficio stesso, quindi alla presidenza della regione, un giorno in cui il 19 di ottobre il presidente della regione non c'era, di non avergli detto assolutamente nulla, di non conoscere nulla della vicenda, di non conoscere né Anna Scognamiglio, il magistrato, né suo marito Manna, di cui non ha mai sentito il nome, e dice quindi nella conferenza stampa di essere parte lesa e di reagire durissimamente a tutto quello che hanno scritto i giornali, che lo presentano come A, consapevole, B, addirittura come parte attiva di una combine, una nomina in cambio della sentenza favorevole contro la sospensione ex legge Severino. Terzo fatto, ma lo dico solo per dovere di cronaca, c'è stamattina anche una dichiarazione resa dall'avvocato del magistrato, su cui intanto si sa che il CSM si appresta a procedere, e il magistrato napoletano si difende dicendo che lei non ha a che fare in nessun modo col marito, perché sono separati in casa, vivono in casa ma hanno una propria vita completamente separata. Se il marito ha usato il suo nome o la possibilità che lei venisse meno al dovere di magistrato, se l'ha inventato, lei non sa nulla. Però ultima cosa, vi facciamo sentire un minuto e mezzo dalla conferenza stampa con un tono durissimo che ha tenuto questa mattina il presidente della regione Campania. Considero il controllo di legalità una funzione essenziale in un paese democratico. E dunque io sostengo pienamente l'azione della magistratura. Ovviamente quello che in Italia è andato crescendo sono gli effetti collaterali che riguardano tutto quello che poi fa seguito ad un'iniziativa giudiziaria, e cioè la ormai consolidata abitudine al massacro mediatico delle persone e delle istituzioni. La seconda considerazione, io sono parte lesa. La terza considerazione, da Napoli lanciamo all'Italia intera la sfida della trasparenza, della correttezza, del rigore amministrativo. Questa è la nostra sfida. E rispetto a questa sfida noi non arretriamo di una virgola. D'altra parte, le prime scelte che abbiamo fatto vanno in questa direzione. E specificamente nel campo della sanità, le nomine fatte sono state istruite dall'ufficio di gabinetto. Io non conosco personalmente nessuno di quelli che sono stati chiamati a incarichi di direzione nella sanità. A conferma che si è voltata pagina, che la regione nella quale la sanità veniva considerata un luogo di clientela politica è finita, c'è un'altra regione. Credo di aver dato lavoro ai giornalisti italiani più di Rupert Murdoch. Mi aspetto di essere nominato cavaliere del lavoro, per quanto lavoro vi ho dato, sinceramente. Devo dire la verità che c'è veramente qualche organo di stampa, anche con le pagine colorate come Topolino, che dovrebbe chiudere se non dessi lavoro. Ma questo è un grande tema che dovrà riguardare il rapporto fra diritto della persona e sistema giudiziario e sistema dell'informazione nel nostro paese. Questo è quanto. Allora, come sentite, tono è il solito tono di De Luca, scandito, mascelluto, durissimo. Ci sono giornali che dovrebbero chiudere, poi aggiunge: perché se non li facessi scrivere io dalle mie vicende, di che scriverebbero? Credo di aver capito, ma poi chiederò ai nostri due ospiti a che giornale, quello colorato con i colori di Topolino, come dice lui. Insomma, è lo stile di De Luca, uno stile autorevole? Ma che punti di autoritarismo? È indagato, e anzi, l'indagine è rimasta, come non capita quasi mai in Italia per lungo tempo, totalmente ignota a noi tutti, e noi tutti facciamo il nostro mestiere. Allora, iniziamo con, abbiamo due ospiti, di cui il primo ci deve lasciare tra pochissimo, appunto perché è pieno di lavoro per dover seguire nella città gli sviluppi. Il primo è il direttore del Mattino, Alessandro Barbano, grazie di essere con noi, direttore. Buongiorno Oscar. E poi il direttore del Fatto Quotidiano, Peter Gomez. Peter, ti chiedo, oltre a salutarti, di aspettare perché facciamo prima parlare Alessandro. Grazie di essere con noi. Buongiorno. Peter. Allora, direttore del Mattino, lei stamattina ha scritto, qui però bisogna capire in tempi rapidissimi se il presidente della Regione Campania c'entra o non c'entra. Gli sviluppi di questa mattina cosa le fanno pensare? Ma al momento ovviamente ragioniamo per deduzione. Abbiamo il decreto di perquisizione del 19 ottobre, che è scritto in un certo modo. Da questo decreto emergono alcune cose. In primo luogo la qualificazione giuridica del reato, che non è, come hanno scritto molti giornali, corruzione, ma è concussione. Esatto. Per il debito e induzione, quella figura, diciamo, introdotta dalla legge Severino, cioè la minaccia è venuta dalla fonte, diciamo, dall'avvocato Manna e dal magistrato. E il fronte regione non si è opposto alla minaccia potendolo fare, ma l'ha subita, quindi concorre per il debito e induzione, ma è parzialmente vittima e parzialmente complice, secondo questa figura giuridica un po' ambigua, che comunque è il frutto dell'articolo 319 quater novellato. Che cosa vuol dire questo? Che è evidente che questa qualificazione giuridica esprime una prudenza da parte del procuratore Pignatore della Procura di Roma, soprattutto nell'attribuire l'ombra del sospetto di una correità partecipa al presidente De Luca. È evidente che se avesse qualificato giuridicamente il reato di corruzione, in qualche modo questo sospetto si sarebbe irradiato in maniera più netta. Ovviamente sono ragionamenti deduttivi che possono lasciare il tempo che trovano, ma io li faccio sulla base degli elementi di cui disponiamo. L'altro elemento è che i magistrati di Roma non scrivono l'avvocato Manna ha minacciato in concorso con il magistrato, ma dicono il magistrato ha minacciato in concorso con il marito. E non è casuale, perché l'attore poi delle minacce, per quello che sapevamo noi, era il marito. Però viene, come dire, se i magistrati di Roma avessero avuto semplicemente delle conversazioni fra il marito del magistrato Scognamiglio, cioè l'avvocato Manna, e Mastursi, capo staff della segreteria di De Luca, nelle quali il marito o millantava o trattava o minacciava un atto a lui favorevole in cambio di uno stop alla legge Severino, non avrebbero dovuto scrivere ragionevolmente così. Avrebbero scritto l'avvocato minacciava potendo contare sulla collaborazione o millantando l'aiuto della moglie. Quindi è evidente che loro hanno qualcosa nelle indagini che riguarda il magistrato. Che riguarda specificamente il magistrato Scognamiglio, la quale, bene dirlo, oggi invece ha detto che da 3 anni non ha rapporti più col marito e che vive da separato in casa, anzi adesso l'ha cacciato di casa. Staremo a vedere che cosa c'è nelle carte rispetto a questo aspetto specifico. La responsabilità politica di De Luca e ovviamente andiamo sempre per induzione, per deduzione. Oggi Pignatone ha detto un'altra cosa importante, ha detto che la sentenza del Tribunale Civile di Napoli con cui si reintegra di fatto De Luca alla Regione non è in discussione, quindi non è oggetto dell'indagine della Procura di Roma. Quindi che cosa può, e che l'indagine si concluderà in tempi molto rapidi. Ecco. Sono due affermazioni che potrebbero essere interpretate in una misura favorevole all'estraneità del presidente De Luca, così come il presidente la rivendica, sostenendo sulla sua dichiarata buona fede di non aver mai conosciuto l'avvocato Manna e di non aver mai saputo da Mastursi, il suo capo staff, che lo stesso Mastursi comunque intratteneva delle relazioni con questo avvocato Manna, che, bisogna dirlo bene, è presente anche in un'altra indagine condotta dal PM Woodcock e dal PM Parascandalo sulla rapporti fra la criminalità organizzata e le ASL della provincia e della città di Napoli. È da lì che nasce sì. l'inchiesta, cioè indagando sui rapporti tra la mafia e gli ospedali napoletani. Viene intercettato mentre fa questo. Viene intercettato l'avvocato Manna. A quel punto loro si accorgono che c'è evidentemente una ipotesi di reato a carico di un magistrato, e perché, siccome un magistrato indagato non può indagare lo stesso tribunale, la competenza passa a Roma. Un ultimo elemento: il rapporto fra De Luca e Masturzi è un rapporto di antichissima data. Sì, ma è un rapporto profondissimo, però, da quello che dicono tutti. È un rapporto profondissimo che inizia nel 2006. Masturzi partecipa a tutte le campagne elettorali di De Luca, aiutandolo nelle liste, insomma è il suo factotum. Dirigente organizzativo del PD della Campania. E anche una responsabilità importante nel PD regionale della Campania. C'è è anche vero però, e questo bisogna dirlo, che quest'estate, dopo la polemica degli impresentabili sollevata dalla Presidente Bindi. Della Commissione Antimafia Bindi, De Luca, quando cerca di dare una motivazione circa la presenza di alcuni soggetti a rischio nelle sue liste, dice: ma che devo dire? Che ha sbagliato Masturzi? Me ne assumo la responsabilità. Però era un modo per scaricare un po' la responsabilità su di lui. Sì, in realtà da quelli che sono evidentemente gli elementi di nostra conoscenza, anche perché ovviamente lo staff di De Luca e i nostri cronisti lo frequentano, effettivamente negli ultimi tempi il ruolo di Masturzi era andato via via marginalizzandosi in una posizione di emarginazione. Non si può escludere che, diciamo, il delfino emarginato abbia potuto pensare di ingraziarsi il principe cercando di condurre una trattativa a lui favorevole anche a sua insaputa, cosa che sembra, teoricamente è possibile, e De Luca lo sostiene con tutta la sua forza. Siccome è teoricamente però ipotizzabile che a questo punto, di fronte alla malaparata, un collaboratore così stretto e già sull'orlo di parecchie critiche sulle liste capisca che deve immolarsi come un giapponese. Il problema è che cosa hanno in mano i magistrati. Questo lo vedremo se Masturzi deciderà di parlare, perché è evidente che Masturzi ancora non ha parlato. L'ultimo elemento, certamente un elemento di trasparenza De Luca non l'ho avuto nella gestione della comunicazione di questa vicenda, perché lui riceve l'avviso di garanzia e, come lui stesso comunica oggi con una nota del suo legale, chiede il 29 ottobre alla Procura di Roma di essere interrogato, quindi conosce di essere al centro di un'indagine, presumibilmente conosce anche l'oggetto, quantomeno in senso molto vago, ma lo conosce l'oggetto, sa anche che il suo capo staff è coinvolto in questa vicenda, e non è pensabile che in questi giorni non ne abbiano parlato. Questo è un dato oggettivo, direttore, perché l'ipotesi che sabato al colloquio conclusivo il braccio destro di De Luca vada De Luca, Montorsi dice me ne vado perché non posso stare eccetera, e non parlino della faccenda, quando la lettera da disponibilità alla procura di De Luca è precedente di essere ascoltato, è fattualmente una cosa che non torna e che non sta in piedi, o no? Attualmente è un dato oggettivo, è evidente che De Luca e Masturzi hanno avuto un chiarimento dopo il quale Masturzi si è dimesso, e dopo il quale De Luca ha commesso due errori gravi di comunicazione. Il primo è quello di inventare una bugia, perché ha detto una cosa non vera, cioè che Masturzi ha dato una motivazione, avrebbe potuto dire no comment, non posso, sono motivazioni sue, invece ha detto espressamente che c'è una motivazione di impegni istituzionali legati alla doppio incarico nel PD e all'interno della giunta che impedivano a Masturzi di fare bene il suo lavoro, che è una motivazione formale di quelle che si danno i giornalisti, però voglio dire, chiarissimo. Considerando i giornalisti un po' stupidi, ma, e anche i lettori evidentemente, però di fronte alla gravità di un'indagine che sta dietro, probabilmente è stata una scelta politicamente sbagliata, soprattutto che non teneva conto che viviamo in una repubblica mediatizzata dove poi chiarissimo. È moralmente discutibile, ma non perché questa scelta, questo voglio dirlo, secondo me, quantomeno rispetto agli elementi che abbiamo, non perché questa scelta provi la malafede di De Luca, ma prova piuttosto un certo dilettantismo nella considerazione del ruolo istituzionale che il Presidente della Regione ha e della gravità delle cose. Allora, in cui, noi adesso ti dobbiamo salutare e ringraziare per questo tuo parere franco. Un minuto di informazione stradale, poi sentiamo il direttore del Fatto Quotidiano, che io ipotizzo essere esattamente quel giornale a cui faceva riferimento, magari mi sbaglio, sentiamo Peter Gomez come la pensa, a cui faceva riferimento il Presidente della Regione Campania quando diceva alcuni giornali dovrebbero chiudere. Strade. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta la versione di Oscar. Allora, eccoci qua, tornate. Vi abbiamo dato tutti gli sviluppi del caso De Luca in corso, la sua durissima autodifesa. Intanto delle cose che non tornano rispetto a quello che ha detto, perché si era reso disponibile alla procura ben prima della dimissione del suo braccio destro e ha detto che col braccio destro non aveva parlato nulla, non sa nulla. Peter Gomez, direttore del Fatto Quotidiano.it, qual è la tua impressione? Cosa non torna in questa vicenda? Non torna il fatto che De Luca è un bugiardo. L'ha detto il mio collega direttore del Mattino. Lui si è presentato in conferenza stampa dicendo che è per la trasparenza. Ha raccontato agli elettori che il suo braccio destro si era dimesso per ragioni politiche e le ha riconfermato la fiducia. Sapeva già di essere indagato, sapeva che il suo collaboratore aveva subito queste presunte pressioni. Delle due l'una: o De Luca è un politico che cede e non denuncia i ricatti e quindi deve levarsi dai piedi, oppure De Luca si è tenuto per 20 anni una persona, fatto che magari giudiziariamente potrà essere sancito, perché nessuno deve essere condannato al di là del finché non sia sciolto ogni ragionevole dubbio, certo. Ma la logica dice che se io ho il mio braccio destro e ricevo un ricatto da me indirizzato, a me indirizzato lo dice subito, anche perché questo ricatto era finalizzato a fare avere un vantaggio a De Luca, cioè la non applicazione della legge Severino, che secondo un sacco di giuristi invece doveva essere applicata sic et simpliciter. La vicenda è maleodorante e secondo me spinge a un'altra riflessione. Qua sono mancati gli statisti. De Luca non doveva essere candidato non per un fatto estetico, ma perché il Partito Democratico, insieme a tutti gli altri partiti presenti in Parlamento, già nel settembre scorso aveva approvato di sua sponte un codice di autoregolamentazione in commissione antimafia, il quale diceva: noi partiti ci impegniamo di fronte agli elettori a non candidare persone che siano imputate per una serie di reati. Tra questi reati c'erano dei reati secondo cui De Luca era già messo giusto, sbagliato. C'era. Allora, io devo dirvi, cari ascoltatori, che la penso come Peter Gomez. Andremo avanti nei prossimi giorni, a cominciare domani mattina alle 8:15, perché ne riparleremo naturalmente insieme a Alessandro Mila. Continuate su Radio 24.